Eccoci qua, La fuga del gatto. Oddio, non ho la più pallida idea dei volumi, come si sentono, perché cioè i soliti cavi che fanno casino. Vabbè, tanto ormai lo sapete, è inutile che mi giustifico. Ma visto che oggi è giorno di festa, perché la vigilia della... di cosa? Non lo so neanche io. Vabbè, diciamo che forse un po' ci hanno liberato, non del tutto, ma insomma un po' domani potremmo uscire. Sempre limitatamente, ma insomma l'atmosfera inizia a essere un po' più, come dire, decompressa, un po' meno tesa, forse, almeno mi pare. E quindi, visto che è questa vigilia di questa cosa che non si sa bene cos'è, ma sembra un po' migliore della situazione precedente, non la chiamerei fase 2, la chiamerei fase qualcos'altro, mi azzardo a dire che forse a breve potrò ritornare nella tana del wombat originaria, dove magari troverò, ecco, non lo so, un sacco di ragnatele, immagino, topi, gatti che hanno preso possesso della regia, di tutto, ma magari, insomma, da un punto di vista tecnico, chissà, voglio sperare che non vi tedierò più con tutti questi inconvenienti tecnici, cavi che non funzionano, insomma, di tutto un po', lamentazioni varie. E quindi La fuga del gatto, Radio Wombat, ovviamente siamo un po' in ritardo, ma neanche troppo, insomma, prima di me. Poi UIT, che vi ha tenuto compagnia raccontandovi di libri, di poesie, e siccome noi siamo, insomma, una radio, ormai lo sapete, di un certo lignaggio, proseguiamo questo pomeriggio culturale di domenicale, in cui vi continuiamo a tenere compagnia con i libri. Libri questa volta, come del resto ormai sapete da un po' di domeniche a questa parte, libri che trattano di musica questa volta, e però, insomma, come le persone sensate ormai sanno, i vari rami della cultura non sono mai davvero disconnessi e separati l'uno dall'altro, quindi poesia, musica, pittura, letteratura, quant'altro, insomma, è giusto che siano tutte intrecciati, come poi è nella realtà e nella vita. Bene. Ma al di là dei miei sproloqui, mettetevi ora calmi su un bel divano, non lo so che avete, tanto ormai a casa ci siete da 3 mesi, quindi vi sarete attrezzati, avrete un bel divano, non lo so, una poltrona, il letto, quello che volete. Mettetevi comodi, prendetevi un tè, pasticcini, quello che più vi aggrada, e iniziamo la lettura di questa ottava parte del libro L'affare Vivaldi di Federico Maria Sardelli, che ormai, insomma, siamo alla puntata numero 8, quindi è un bel po' di settimane che andiamo avanti nel leggerlo, e il mistero si infittisce di intrecci, di manoscritti che passano di mano in mano dai salesiani ai gesuiti, ai nobili vari, non lo so, di tutto c'è in questo libro, di vari affaristi che cercano in tutti i modi di farne profitto, salvo qualche anima buona, come in particolare Gentili e Torri, degli archivisti, dei bibliotecari e degli appassionati di musica, che invece cercano in tutti i modi di salvare questi manoscritti dalla polvere e soprattutto dalla distruzione del tempo e degli affaristi. Storia nota e insomma che si trascina da diversi secoli. Quindi eravamo, vi ricorderete, rimasti all'ennesima contrattazione per una vendita e per un passaggio di mano di questi manoscritti del povero Vivaldi, e non solo di lui ma di tantissimi altri compositori, e eravamo a fine Settecento. Oh, che bello, che bello, sì, grazie, mi avvisa il computer che c'è un virus, che insomma non mi devo preoccupare, che fa tutto lui. Bene, bene, grazie, scusate i rumoretti, non ho cambiato computer, abbiate pazienza. Quindi, dicevamo, eravamo alla fine del Settecento, l'ennesimo passaggio di mano di questi manoscritti, questa volta tra un diplomatico, direi, sì, un ambasciatore, che cerca di anche con una certa passione e interesse, questa volta sincero, di ottenere e comprare poi alla fin fine ovviamente questi manoscritti dall'ennesimo religioso, questa volta un gesuita, che non vede l'ora di liberarsene per un po' di soldi, e eravamo qui per l'appunto a questa compravendita. Erano passati 6 giorni, durante i quali Durazzo era ripiombato nella sua noia lagunare, aggravata dall'assenza di spettacoli teatrali e di visite. L'unico suo sfogo, in attesa di ampliare la sua collezione di libri, erano le lettere. Ne aveva scritte una 30 in pochi giorni, dando fondo a gran parte del suo indirizzario di amici e corrispondenti sparsi per l'Europa. Scriveva a tutti da quella città opprimente per ricevere una boccata d'ossigeno, una parvenza di conversazione, per sapere che si diceva in quel salotto di Parigi, per farsi spedire i 9 volumi sugli uccelli dell'Histoire naturelle di Buffon, per stare informato sugli spettacoli di Vienna e poi poterne dir male, insomma, fingersi ancora al centro della scena. Quella mattina era già pronto per andare a visitare i canonici e mettere le mani sulla preziosa raccolta, quando il segretario gli posò sul tavolo l'ossigeno della corrispondenza di quel giorno. La scorse velocemente prima di uscire, lasciandosi al suo rientro il piacere di godersela, ma una lettera lo bloccò. Veniva dal Senato veneziano e lui non ce la fece ad attendere il pomeriggio. I sigilli saltarono in un attimo, prese a leggerla con avidità e subito un sorrisone soddisfatto gli tagliò in due la faccia. Ora poteva uscire ancor più contento a godersi il suo giocattolo, reso più attraente da una ciliegina in attesa. Dite a mia moglie di farsi accompagnare all'ora 16ª sul molo della piazzetta San Marco, dove ci sarò io ad attenderla. Naturalmente vi chiederà perché, e voi le direte che le ho riservato la sorpresa di un piccolo divertimento. Ma signore, rispose il segretario, voi sapete bene che la contessa non si accontenterà di questa spiegazione e mi coprirà di 1000 domande alle quali io non saprò cosa rispondere. Il segretario non diceva male. Ernestino non si sarebbe mai mossa da casa senza saperne di più e avrebbe piantato una grana se lui l'avesse lasciata alla mercé di quelle indicazioni laconiche. Hai ragione, passiamo direttamente dall'appartamento di mia moglie prima di uscire. Lei era ancora a letto e non volle saperne di alzarsi così presto. La cameriera arrossì davanti al conte, traducendo le insolenze ricevute in «La contessa sta ancora riposando». Il conte insistette perché la facesse alzare. Lei obbedì e sparì nuovamente nella tana della leonessa come un coniglio che sa di essere sbranato. Passarono 5 lunghissimi minuti finché la porta non si riaprì. La cameriera aveva la faccia del «Che vi dicevo?» ed Ernestine, col viso gonfio e vergato dalle impronte del cuscino, socchiuse la sua boccuccia graziosa. E lo sai che stanotte non ho chiuso occhio, e tu invece eccoti qua già bello fresco e riposato per andare a spasso, mentre io sono 2 giorni con questo mal di testa, ma a te interessano solo le tue cose e io potrei morire, tanto se muoio da sola qua nel letto sei capace di non accorgertene neanche, perché pensi solo alle tue stampe, ai tuoi libri, ma pretendi che io rinunci al riposo per accontentare il tuo... Il tutto in tedesco, anzi in viennese. Durazzo attese il tempo di esaurimento delle munizioni, sporgendosi alla finestra a guardare il tempo, riannodandosi il jabot e dando cenni muti al segretario che lo aspettasse giù. Dopodiché le disse soltanto: «Tesoro adorato, ti voglio fare una piccola sorpresa. Ti attendo all'ora 16ª in piazzetta San Marco. Non mi chiedere altro. A più tardi». E le stampò un bacio in fronte, scappandosene prima che potesse riaprir bocca. Da canonici passò 1.5 ore di beatitudine bibliografica impagabile. Quell'uomo, per quanto sgradevole, possedeva una biblioteca fra le più importanti d'Europa e adesso lui stava per metterci sopra le mani. Sfogliò i manoscritti dei Vivaldi, si gingillò nell'ammirare la prodigiosa raccolta di 4.000 Bibbie in 52 lingue diverse. Si perse, insomma, fra le migliaia di pagine di quel magnifico parco giochi. Elenco degli codici, manoscritti e compagnia che formano la collezione lasciata dall'abate Matteo Luigi Canonici di Venezia. Codici manoscritti dei secoli XIII e seguenti, ossia scrittori sacri, Bibbie, commentari, santi padri, scrittori ecclesiastici, evangeliari, rituali sacramentari, eccetera, molti dei quali sono ornati di belle e distinte miniature. Testi ebraici di tutto il Vecchio Testamento, commentari ebraici e libri rabbinici, testi greci della Bibbia, Bibbie latine intere o parti, qualche salterio dei secoli undicesimo e dodicesimo, ornati di copiose e ragguardevoli miniature e dorature. Opere dei santissimi padri greci e dei santissimi padri scrittori ecclesiastici latini, liturgici latini, dei secoli undicesimo e dodicesimo, codici liturgici greci del secolo dodicesimo, breviario in gran foglio del secolo quindicesimo, ornatissimo di miniature di buon gusto, uffici della Beata Vergine in gran numero, scrittori profani, cioè autori classici greci, nei quali ne sono di Demostene, Tucidide, Arato, Stobeo, Fozio, Michele Glica. Autori classici latini, in massima parte del secolo XIII, dal secolo XIII al XV, ove trovasi Cicerone, Sallustio, Cesare, Livio, Plinio, Seneca, Plauto, Terenzio, Virgilio, Ovidio, Orazio, Stazio, Valerio Massimo, Prisciano, Catullo, Vegezio, Pomponio, eccetera, eccetera, eccetera, codici in grande abbondanza. Degli scrittori latini dei bassi tempi in scienze varie, geografi, storici, oratori, poeti, grammatici, eccetera. Codici arabi, turcheschi e persiani, codici cinesi e indiani, dei quali alcuni scritti in foglie di palma, papiri, medaglie, cammei, pietre intagliate, bronzetti, teste di bronzo, avori, tazze di rame e smalto, eccetera. Ma a Durazzo non interessavano né le Bibbie né tutte le meraviglie esotiche messe insieme dal gesuita. Gli acquistò tutti i manoscritti musicali che possedeva, più un gran numero di libri a stampa di suo interesse. Canonici continuava a ripetere che gli avrebbe fatto un prezzo di vero favore, anzi un regalo. Conveniente prezzo, Zecchini Veneti 8.250, dico 8.250. E ci volle aggiungere in dono, strappandoselo dal cuore, anche un bronzetto romano rarissimo, del quale per pudore non riuscì a dire il prezzo. Pasquale portò le carte e il conte sottoscrisse l'accordo, mentre Canonici preconizzava un floridissimo avvenire alla casata dei Durazzo. Uscì da quel parco delle meraviglie felice e raggiante. La giornata era luminosa e tiepida e lui respirò profondamente quell'aria pura che gli puliva i polmoni dal cattivo odore respirato là dentro. Assieme al suo segretario riprese la gondola che lo aveva atteso ormeggiata in Rio San Luca, direzione bacino di San Marco. Allenarti allora, capisti, al dite, vedeste ancora un padre ed una figlia, perfida, alba di lei, perfida, alba di lei, misero par di me, alba di me, alba di me. Dove allenarti allora, capisti al dite, figlia, dite, vedesti ancora un padre ed una figlia, perfida, alba di lei, perfida, alba di lei, misero al par di me, misero al par di me, alba di me, perfida figlia, perfida figlia, misero, misero padre, dite vedesti mai un padre ed una figlia, perfida al par di lei. Perfida par di lei, misero al par di me, al par di me, al par di me. L'ira soffri, soffreni, i destini diranno, i destini diranno, ma questo solo fanno costante il colore, no, no, no, no. Non è costante. A questo solo costante. guardi allora, capisti, capisti al di le ciglia. Dite, dite, dite, vedete ancora un pane ed una via. Perfida al pagine, perfida al pagine, misera al pagine, al pagine, al pagine. Dovete darti allora, capisti al di le ciglia. Dite, vedete ancora un pane ed una via. Perfida al pagine, perfida al pagine, misera al pagine, misera al pagine, al pagine, perfida figlia, perfida figlia, misero, misero padre, di te ste mani, montate una figlia, perfida partil dei, perfida partil dei. Era quasi l'ora stabilita e Durazzo chiese ai servi di vogare più veloci che potevano. Ti immagina la contessa asburgica che strepiti se fosse giunto in ritardo. Quando scese all'imbarcadero della piazzetta, Durazzo trovò subito la moglie che lo aspettava lì accanto, servita da due dame e un servitore. Era stranamente tranquilla, smarrita, con gli occhi che lo cercavano a chiedergli il perché di quella situazione surreale. Non disse una parola, lo guardava con fiducia e trepidazione, come cercando protezione da quel che stava accadendo. Sulla riva, facendo cerchio attorno alle colonne di Sant'Odaro e San Marco, si era assembrata una gran folla che arrivava fin sotto i portici della libreria e del palazzo ducale. L'ambasciatore agganciò stretta Ernestina al suo braccio e attraversò la folla come fa la lama nel burro, grazie alla protezione di quattro servi che gli spianavano la strada. Arrivato al centro della scena si godette lo spettacolo assieme alla sua Ernestina che gli stringeva ritmicamente la mano con trepidazione. Sulla sinistra, verso la libreria, c'era una grande barca, tirata fin lì chissà come. Era assai strano vedere una barca in mezzo alla piazza. Stava appoggiata sulle pietre del selciato in modo innaturale e in effetti, sotto la chiglia, si potevano scorgere fascine, rami e ciuffi di paglia. Quella barca, nera con una striscia rossa e oro sul bordo, lui l'aveva già vista. Era una caorlina a sei remi, con le sei forcole tinte di rosso che spiccavano tortuose e scanalate come le corna di un cervo ormai arreso ai cacciatori e fatto preda da esporre alla folla. Passarono solo pochi istanti e da sotto i portici del palazzo ducale comparvero sei uomini accompagnati da altrettante guardie. I sei furono fatti disporre in fila a fianco della barca. Erano in maniche di camicia e scalzi, con le caviglie e i polsi serrati da catene. Nessuno di loro alzava lo sguardo e anzi, alcuni cercavano di nascondere la faccia quanto più potevano, appiccicando la guancia alla clavicola o toccandosi lo sterno con il mento. Il primo di loro portava al collo un cartello dipinto su cui si poteva leggere, anche da buona distanza, condannati alle galere per aver usato violenza contro la gondola dell'ambasciatore imperiale. Il popolo vociava, alcuni gridavano insulti ai prigionieri, altri gli tiravano oggetti che loro non riuscivano a scansare. Centinaia di persone si erano radunate per godere lo spettacolo. Il sole era a picco e cominciava a far caldo. Quella situazione, carica di tensione, sgomentò Ernestine, che stringeva a intermittenza la mano del marito fino a fargli quasi male, mentre con la destra portava il fazzoletto alla bocca e lo mordeva. Dopo interminabili minuti di gogna e ludibrio, una delle guardie si staccò dalla fila e raggiunse la barca, armeggiò un poco dietro di essa e poi, improvvisamente, una vampa di fuoco si levò da poppa, andando in un attimo a circondare tutto il fasciame che prese a bruciare, scricchiolando e scoppiettando, mentre una densa nube nerastra aveva già superato l'altezza del campanile. La barca bruciava, avvolta da un fuoco violento e turbinoso che scaldava troppo, così i prigionieri cominciarono a stringersi per allontanarsi e il pubblico allargò il cerchio intorno a quello spettacolo impressionante. Durazzo guardava impassibile la scena, stando ben piantato su gambe divaricate, con le due mani appoggiate sopra il bastone davanti a sé, nessuna espressione o emozione attraverso il suo volto, tranne gli occhi che si stringevano e chiudevano più spesso pizzicati dal fumo. Ernestina invece era in grande disagio e come spaventata nascondeva ormai il volto contro la spalla del marito. Mentre la barca finiva di ardere e il popolo, ormai annoiato, stava cominciando a disperdersi, il capo dei birri, quello col cartello al collo, alzò per la prima volta la testa e trovò subito lo sguardo di Durazzo. I due stettero qualche istante a fissarsi, finché l'uomo in catene, che non aveva più niente di quella selvatica arroganza mostrata durante l'assalto alla gondola, accennò un maldestro e imbarazzato sorriso, quasi infantile, come un «ormai». Durazzo provò un istintivo moto di simpatia e gli sorrise di rimando, come a dire «che peccato, eh?». La barca era quasi del tutto bruciata, il fumo era insopportabile e le guardie radunarono i sei uomini per portarli via. L'uomo col cartello si volse un'ultima volta all'indietro per dare uno sguardo a quel suo nuovo amico che non avrebbe mai più visto, e il conte di rimando mise mano al cappello. «Komm, Tine, gegen wir!» gli scappò in tedesco e la prese sotto braccio per portarla alla gondola. Torino, marzo 1927. In effetti, il dubbio che mancasse qualcosa era già saltato in mente a Gentili quando sfogliava i manoscritti di Vivaldi. Alcuni volumi si aprivano con una composizione già iniziata, oppure terminavano con una composizione che restava incompleta e che non trovava continuazione in nessun altro volume. Ma in mezzo a quel ben di Dio, con la frenesia di inventariare tutto e darne una stima economica, non gli aveva dato troppo peso. Poteva anche trattarsi di lavori frammentari, di cui erano andati perduti alcuni fogli, vai a sapere, poco male in mezzo a centinaia di composizioni complete. E invece ora, dopo la scoperta dei numeri mancanti, tutto ciò acquistava un altro senso. Era evidente che alcune composizioni erano state divise a cavallo dei volumi da chi in passato aveva legato insieme quelle carte, e c'era da scommettere che nei volumi mancanti si sarebbe trovato l'inizio o la continuazione di quei frammenti. Se non del tutto spento, l'entusiasmo per l'acquisizione della collezione Foà era senz'altro appannato. Torri e Gentili avevano adesso la mente di nuovo proiettata alla ricerca dell'altra misteriosa metà della raccolta, che calamitava il loro interesse più di quei 97 volumi manoscritti appena assicurati allo Stato. Ma da dove cominciare a cercare? Questo era il punto. Chiedere a Monsignore Emanuel fu la prima risposta che entrambi si dettero. Bisognava per forza ripartire da lì. Come avevano ricevuto la raccolta ai Salesiani e da chi? Di certo i donatori dovevano essere in grado di dire dove si trovassero gli altri volumi mancanti, o perlomeno fornirne una traccia. Sembrava semplice, ma appena Torri ricevette la lettera di risposte alle domande che aveva posto Monsignore Emanuel, si rese conto che la strada era tutta in salita. Il buon padre rispondeva laconicamente che la donazione proveniva da una non meglio precisata collezione Durazzo, punto e basta, e che loro non ne sapevano nulla e non conservavano nient'altro sull'argomento. Emanuele, almeno nella seconda parte della frase, aveva detto la sacrosanta verità. Era evidente che i Salesiani ne avessero abbastanza di quella storia. Meno indagini e meno pubblicità intorno a quell'ascito e meglio sarebbe stato per loro. Ma intanto, quando Torri e Gentili si rividero per parlare del da farsi, era scoppiato il caso e i giornali avevano cominciato a scrivere. Per tutto il tempo della scoperta, dell'identificazione, della ricerca del donatore, erano riusciti a tener cucite le bocche e a non far traperare nulla, presi da un vero e proprio terrore che altri potessero mettere le mani su quel tesoro. Ma adesso che la collezione era stata messa al sicuro, il coperchio saltò da solo. Ci pensò un comunicato asciutto e burocratico del ministero, dove si annunciava l'acquisizione della importantissima raccolta di preziosi manoscritti sconosciuti finora dai competenti, provenienti da un non precisato comune sottoposto alla giurisdizione della soprintendenza bibliografica del Piemonte e la Liguria. In pochi giorni tutti i giornali italiani e le più importanti testate straniere assaltarono Torri e Gentili con la richiesta di informazioni. I due raccontavano, sì, ma non del tutto. A ogni intervista descrivevano volentieri la bellezza esteriore e intrinseca dei manoscritti, si dilungavano sulla loro capitale importanza per la storia della musica, ma glissavano, non senza qualche maldestrezza, sulle domande relative alla provenienza. Non potevano permettere ai ricercatori di tutto il mondo di indirizzarsi verso il Collegio San Carlo e da lì alla traccia Durazzo. Sai che smacco se qualcun altro fosse arrivato prima di loro a mettere le mani sull'altra metà della collezione. Anzi, ma che? nessuno doveva neanche sospettare che esistesse un'altra metà della collezione. Thank you. finché poteva, Gentili depistava. Il Giornale d'Italia scrisse che la preziosa raccolta spuntava fuori da un convento vicino a Bologna. Il Corriere della Sera raccontò che le preziose musiche dormivano in una casa in una vecchia casa ligure. Richard Keppel, critico del Daily Mail, annotava che la musica era stata scoperta personalmente dal professor Torri in an out of the way piedmontese convent. Ma piano piano il cerchio si stringeva, e quando saltò fuori che questo convento si trovava vicino a Casale, molti s'accesero di curiosità per individuarlo. Fioccavano le domande dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, dalla Francia, dalla Germania. Tutti chiedevano da dove provenissero quei manoscritti, e già diversi musicologi cominciarono a domandare il permesso di esaminarli. Torri e Gentili in questi casi si chiudevano a riccio e restavano sul vago. I manoscritti erano ancora da inventariare, da esaminare, il momento era prematuro, si sarebbe visto più avanti, sì, insomma, ecco. Lo stesso Keppel, da Londra, fotografò bene lo stato d'animo dei due. Le autorità torinesi sembrano come spaventate dalla fortuna caduta loro dal cielo, come se questa avesse gettato ai loro piedi un animale strano, di valore ma feroce. Che nervi! Proprio adesso che potevano godersi in pace la gloria della grande scoperta, eccoli lì ad arrovellarsi da capo, nascondere informazioni, stare sul chi vive per paura che qualcuno gli soffiasse la cosa. L'animale strano, feroce e di valore che si muoveva ai loro piedi, e loro non sapevano che pesci prendere, sapevano solo che la cosa non era finita lì e che bisognava darsi da fare. Sì, ma da dove ripartire? Parlandone insieme, Torri e Gentili dedussero che la collezione Durazzo, di cui scriveva padre Emanuel, fosse da ricollegare all'omonima città albanese che si affaccia sull'Adriatico. E come si potevano iniziare delle ricerche laggiù? Beh, proprio in quei mesi il governo fascista stava esercitando forti pressioni politiche e militari sul presidente Ahmed Beyzoğlu, e di fatto l'influenza italiana su quel sventurato paese era sempre più forte. Sarebbe stato facile, con l'aiuto del governo, ottenere permessi per farvi ricerche. E una volta a Durazzo, dove si sarebbe iniziato a cercare? E poi, come mai quell'oscura città portuale celava dei grandi tesori musicali? Ma probabilmente era stata dominata in passato dai veneziani, e questo spiegherebbe. Bravi scemi. Torri si accorse della scemenza conversando una mattina col marchese Faustino Curlo sullo scalone d'ingresso della nazionale. «Durazzo nel senso dell'omonima casata genovese, vero?» disse lui, sereno e sicuro come quei bambini saccenti che si trovano sempre preparati all'interrogazione. Torri fece sì col capo, senza sapere perché, e Curlo lo investì con dottissimi ragguagli genealogici sui Durazzo, dogi navigatori, mecenati musicali e ambasciatori. Ma certo, che cretini! Collezione Durazzo, nel senso di famiglia Durazzo, ma che Albania! Torri si sentì molto sollevato, non aveva nessuna voglia di andarsene in giro per l'Albania, e davanti a Curlo fece finta di aver sempre saputo che si parlava della nobile famiglia genovese. Appena tornato a casa, avvertì subito per telefono Gentili della faccenda. Insieme decisero che doveva essere Curlo a occuparsi della ricerca genealogica per capire da quale ramo dei Durazzo provenisse il fondo Foà, e da lì risalire alle possibili divisioni dinastiche che avevano smembrato quella biblioteca alla ricerca dell'altro troncone. Ma che bravi, era facile adesso impartire gli ordini. Fosse stato per loro, a quest'ora sarebbero stati sempre lì a cercare di capire dove si acquistano i biglietti per il piroscafo Ancona Durazzo. Curlo si prese il suo tempo. Da uomo serio, puntuale, acribico qual era, non voleva sbagliare. Dopo 3 settimane, a fine marzo, invitò i due grandi navigatori nella sua casa di campagna di Coazze, un paesino di mezza montagna a ovest di Torino, dove il marchese amava ritirarsi quando c'era da scrivere e meditare, e dove custodiva e accresceva la sua formidabile biblioteca. C'era da spiegare una complicata situazione dinastica, e Curlo aveva lì tutti i suoi strumenti. Con questo finiamo la puntata di oggi, la puntata numero 8, appunto. Lasciamo spazio al resto della programmazione di Radio Wombat, che prosegue in particolare con Tinala, una nuova puntata della trasmissione che rilanciamo da Radio Spore. E a questo proposito vi invito anche a rimanere sintonizzati su Radio Wombat, perché alle 7 inizierà una diretta speciale delle solite nostre che ormai tipo tutti i giorni faticosamente tiriamo su, ma questa diretta è un po' particolare perché il tema sarà la radio e andremo a conoscere insieme, a farci raccontare varie radio amiche che sparse per l'Italia, chiaramente non tutte perché sono tantissime fortunatamente le radio amiche e affini, ma almeno qualcuna ce la faremo raccontare, ci faremo raccontare in particolare di questi tempi di pandemia e di colera, che cosa è cambiato per la loro quotidianità. Quindi vi lascio gli ultimi contatti che non vi ho dato a inizio trasmissione, in particolare la posta a cui scriverci, posta wombat@insiberia.net, e anche il sito ovviamente wombat.noblogs.org. Importante anche perché in home page subito lì preciso trovate sia l'indirizzo del pad nel quale potete interagire con noi durante le dirette, e anche la messaggeria nel quale potete lasciare un messaggio in bottiglia registrato, che appunto poi noi manderemo in onda. Questo è tutto, vi lascio però con un ultimo ascolto del meraviglioso Vivaldi, sempre Catone in Utica, come nelle ultime, oddio, ho perso un po' il conto, forse 3 puntate. Come sempre vi lascerò i dettagli dei brani che abbiamo ascoltato oggi nel podcast che troverete sul sito, in modo che possiate andare a riascoltarveli per intero, insomma con calma quando volete, e vi do appuntamento non a domenica prossima, perché vi dico già d'ora che so che non posso esserci domenica prossima, ahimè, ma alla domenica successiva sicuramente La Fuga del Gatto, ovviamente sempre su Radio Wombat. Ciao ciao.